644. Torta di pane bruno alla tedesca. È una torta che merita e vi consiglio a provarla. Mandorle dolci grammi 125, zucchero grammi 125, cognac cucchiaiate numero 4, corteccia di pane di sigala grattato, cucchiaiate colme numero 3, uova numero 5. Prima lavorate lo zucchero con due delle dette uova intere. Poi aggiungete le mandorle sbucciate e pestate fini con una cucchiaiata del detto zucchero. Tornate a lavorare il composto, indiversate il pan grattato e tre rossi, in ultimo il cognac. Montate le tre chiare rimaste ed unitele. Preparate una teglia proporzionata, ungetela col burro ed aspergetela di zucchero a velo e farina. Dopo averla cotta al forno o al forno da campagna, copritela con una crosta tenera come quella del numero 645, oppure con un intonaco di cioccolata in questa maniera. Mettete al fuoco grammi 30 di burro e grammi 100 di cioccolata a pezzetti, e quando sarà bene sciolta, aggiungete grammi 30 di zucchero a velo e distendete il composto sul dolce quando non sarà più a bollore. Se non temessi di seccare il lettore, qui verrebbe opportuna un'altra digressione sulla cucina tedesca. Mi resterà memorabile finché vivo il trattamento della tavola rotonda di un grande albergo ai bagni di Levico. Cominciando dal fritto d'Alesso fino all'arrosto inclusivo, tutti i piatti nuotavano in un abbondante sugo sempre uguale, dello stesso gusto e sapore, con qual delizia dello stomaco potete immaginarlo. E come se ciò fosse poco al suo tormento, quei piatti spesso venivano in tavola accompagnati da un timballo di capellini, capite? Che in questo modo devono sottostare a doppia e lunga cottura, un vero impiastro. Quanta differenza dal gusto nostro! Ai capellini in brodo il mio cuoco ha l'ordine di far alzare appena il bollore, ed io li prevengo aspettandoli in tavola. La cucina italiana, che può rivaleggiare con la francese e in qualche punto la supera per la grande affluenza oggigiorno di forestieri in Italia, che si vuole vi lascino da 300 milioni all'anno, e secondo calcoli approssimativi con un crescendo eccezionale di altri 200 milioni in oro nell'anno santo 1900, va a perdere a poco in questo miscuglio turbinoso di popoli viaggianti il suo carattere particolare, e questa modificazione nel vitto già è cominciata a manifestarsi più specialmente nelle grandi città e nei luoghi più battuti dai forestieri. Ebbi a persuadermene di recente a Pompei, ove, entrato con un mio compagno di viaggio in un ristorante in cui ci aveva preceduto una comitiva di tedeschi, uomini e donne, ci fu servito il medesimo trattamento di loro. Venuto poi il padrone a chiederci gentilmente se noi eravamo rimasti contenti, io mi permisi di fargli qualche osservazione sullo sbrodolio nauseoso dei condimenti, ed egli mi rispose: «Bisogna bene che la nostra cucina appaghi il gusto di questi signori forestieri, essendo quelli che ci danno il guadagno». Forse, per la stessa ragione, sento dire che la cucina bolognese ha subito delle variazioni e non è più quella famosa di una volta.